Questa notte c'è stata una rottura dell'argine poco distante dove è successo nel 2019, e quindi con una fuoriuscita dell'acqua in una zona per fortuna non molto abitata, e stamattina invece è crollato il ponte sulla Zenzalino, che è la strada principale che collega Budrio a Molinella, quindi una situazione molto, molto grave. In più ci sono molte esondazioni di fossi, tracimani fossi, e quindi insomma in diverse frazioni del paese ci sono delle criticità. Per fortuna sia l'amministrazione che la protezione civile, l'esercito, i carabinieri, insomma tutte, diciamo, le forze sono impegnate. Vedo che insomma si sta cercando di seguire la cittadinanza, ma ci sono veramente tante tante criticità. Ci sono degli sfollati? Stanno evacuando alcune le persone chiaramente che erano più vicine all'argine, e poi stanno dando le indicazioni, perché come potrete vedere la situazione è ancora in evoluzione, quindi ancora non è finita, ecco, diciamo, quindi si è allerta e sicuramente sono state avvisate tutte le persone in prossimità del fiume o dei canali più grandi che possono correre dei rischi. Ecco, precisiamo che insomma per il crollo del ponte della Motta per fortuna non ci sono persone coinvolte, ma no, una domanda ti volevo fare, visto che appunto hai vissuto una situazione analoga nel 2019, che effetto fa? Ma è sicuramente un effetto, come dire, di grande preoccupazione, perché purtroppo ci rendiamo conto che questi eventi diventano più frequenti e non ci si può fare molto quando accadono. Chiaramente le manutenzioni, tutti i lavori sono importantissimi, ma come abbiamo visto quando arrivano eventi di questa natura e di questa portata diventa difficile controllarli, insomma purtroppo si può soltanto agire in soccorso e diciamo a seguito di quello che è successo, quindi insomma è una situazione da un certo punto di vista ti fa sentire un po' impotenti, e dall'altro come sempre ci si muove tutti per cercare di dare un aiuto a chi rimane colpito più direttamente. Ecco, ovviamente superata l'emergenza occorrerà una riflessione, come dire, generale di tutta la provincia sul sistema, la sicurezza idraulica? Tanti interventi sono già programmati, in parte anche fatti, però è chiaro che la quantità degli interventi che devono essere fatti è sicuramente molto molto grande, quindi si tratta di fare investimenti molto importanti. La regione interviene, ma diciamo che non si può, bisognerebbe, ecco, intervenire con una quantità di risorse veramente, veramente alta, quindi insomma è chiaro che le riflessioni si fanno, ma poi sono sempre legate alle risorse che riesce a mettere in campo. Su Budrio, ad esempio, dopo il 2019 la regione aveva messo già aveva già finanziato degli interventi anche importanti, in parte anche erano stati fatti, ma quando arrivano degli eventi meteorologici ed atmosferici come questo, veramente di portata straordinaria, si parla di una situazione che non si presentava da almeno 50 anni, insomma sono situazioni che poi diventa difficile anche contenere, ecco, quindi sicuramente bisogna intervenire, ma è un ragionamento, come dire, quasi scontato da fare, ecco. Certo, ecco, stanno piovendo insomma quantità d'acqua che di solito si vedono in 2-3 mesi, quindi questo ovviamente questo in più dopo un'altra diciamo situazione di pochi giorni fa, che quindi aveva già reso i terreni molto più, diciamo, restii ad assorbire di nuovo acqua, quindi insomma si è sommata una nuova criticità, una criticità che si era presentata pochi giorni fa, insomma. Quindi insomma è chiaro che di fronte a questo cambiamento climatico la fragilità e la criticità della rete idrogeologica, idrica, i fiumi, le montagne, poi io sto guardando anche quello che succede in montagna, quello che succede in Romagna, insomma è veramente una situazione direi drammatica.